get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. E va bene, non ci smentiamo mai, cominciamo subito a fare qualche piccolo errore. Dunque, ciao a tutte, ben ritrovate. Quella che state ascoltando è la nostra 128esima trasmissione. Oggi qui in studio siamo io, che sono Caterina, e con me c'è Ceppina. Vi ricordo subito il numero telefonico attraverso il quale potrete inviarci gli sms. 338-41-46-682. Più avanti nella trasmissione lo ripeteremo, quindi preparate carta e penna. Inoltre vi ricordiamo che potete telefonarci fino alle ore 22 qui alla radio al numero 06 49 17 50, cioè avevo il volume troppo basso del microfono, spero che adesso si senta meglio. E anche se stando in diretta oggi, come avrete ben potuto constatare da subito, sarà un po' difficile rispondervi in modo esauriente, però potete, se ne avete voglia, farci gli ormai consueti trillini, che poi non è altro che fare uno squillo e riattaccare, per farci così sentire che ci siete e che ci state ascoltando. Se poi invece proprio sentite il bisogno di parlarci, potete farlo il mercoledì sì, al numero 06 68 64 201, a partire dalle ore 21. Adesso vi voglio dare però una bella notizia. Lo sapete che noi del coordinamento lesbiche romane siamo state intervistate, stiamo diventando famose. Delia Vaccarello infatti ci ha fatto alcune domande proprio sulla nostra trasmissione. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Collegandosi ad internet al sito www.gelyolonline.it si può leggere GEL, un periodico che in Toscana esce su carta, ma che ha anche questo sito internet sul quale, nel settore Lesbian Life, verrà probabilmente a novembre pubblicata la nostra intervista. Ecco un altro motivo per prendere carta e penna. Tra poco ripeteremo anche questo indirizzo insieme al numero per gli sms. Ed ora, visto che ho parlato troppo, passo la parola a Pina accendendole il microfono. Vai, è aperto. Ciao a tutte, sono Pina e volevo anch'io dirvi due cosette. La prima è che potete ascoltarci anche attraverso il nostro sito www.clrbp.it, la radio, no, slash, scusate, allora ripeto, va, che ho fatto già il mio primo errore. Brava. Mica è solo Caterina. www.clrbp.it/laradio.htm. Cliccando sull'icona in diretta, dove c'è anche la possibilità di inviare email. Quindi avete una vasta gamma di opzioni per mettervi in contatto con noi. L'altra cosa è il numero per i messaggi. 338-41-46-682. Questo numero di messaggi rimarrà attivo per tutta la durata della nostra trasmissione. Ci stiamo comunque attrezzando per lasciarlo attivo sempre, in modo che voi possiate godervi la trasmissione in santa pace. E nel caso aveste voglia di comunicarci qualcosa, lo potreste fare in un secondo momento. Vi faremo sapere quando questa opportunità sarà attiva. Per il momento potreste però anche andarvi a leggere i messaggi che ci sono già arrivati e che abbiamo riportato nel nostro sito, che vi ricordo è www.clrbp.it. Per finire, volevo anticiparvi l'argomento di oggi, che è l'uso del linguaggio, sul quale verterà tutta la nostra trasmissione odierna. Come al solito abbiamo parlato già abbastanza, quindi ascoltiamo una canzone e si tratta del brano, proviamo a vedere se ci riesco a dire. Chic to Chic di Jane Monet. Heaven, I'm in heaven.

Allora, come vi avevamo preannunciato nell'introduzione, questa sera affronteremo il discorso sull'uso del linguaggio. Vi confesso che la molla che ci ha fatto decidere di riflettere su questo argomento per poi parlarne con voi è stata la telefonata di un'ascoltatrice fatta proprio durante una nostra trasmissione in diretta. E proprio perché eravamo in onda non abbiamo potuto approfondire molto il discorso con lei. Ci scusiamo per questo, ma la ringraziamo comunque per averci stimolato così tanto. Infatti era da tempo che questo argomento ci frullava in testa senza che venisse mai specificato fino in fondo. Dunque, in quella telefonata la donna diceva che ci seguiva da poco tempo, che le nostre trasmissioni le piaciucchiavano così, che era interessata agli appuntamenti che mandavamo, che gradiva la nostra musica, che le stavamo abbastanza simpatiche, ma la cosa che proprio non le andava giù era questo nostro puntualizzare costantemente che si trattava di una trasmissione lesbica, che noi eravamo lesbiche e che questo era uno spazio di cultura lesbica. Alla domanda "Ma perché ti disturba tanto?" ha risposto molto onestamente, devo dire, dicendo che in fondo per lei era importante stare bene, che non riteneva così vitale la specificazione della tendenza sessuale e che una tale definizione avrebbe rischiato di rinchiudere la persona all'interno di una categoria finendo per ghettizzarla. Dunque, dalla voce sembrava essere molto giovane, questo personalmente ha suscitato la mia curiosità perché ho ripensato al mio percorso. Sinceramente non sono in grado di stabilire se tutto questo distacco rispetto alla parola lesbica possa essere dipeso dalla paura che istintivamente cresce dentro di sé quando ci si scopre, quando si comincia a capire e prende sempre più forma questo nuovo aspetto di te stessa. Io infatti ve lo dico veramente, sono veramente convinta che ci vuole molto più coraggio ad accettarlo che a reprimerlo. Ci vuole molto più coraggio ad accettarlo che a fare finta di niente. Ci vuole molto più coraggio ad accettarlo che dire di non esserlo. Ci vuole molto più coraggio a viverlo che a vivere senza. Io ripeto, non sono in grado di stabilire se erano questi i motivi che la facevano sussultare forse ogni qualvolta sentiva la parola lesbica. Se così fosse, le auguro di percepire molto presto il rimando di forza che si riceve quando riconosci e accetti te stessa. Ma cosa a noi ha dato così tanto da riflettere? Tanto da decidere di farci addirittura una trasmissione. Beh, inutile nascondere che anche la paura che ti attanaglia quando scopri di essere diversa, tra virgolette, o come noi preferiamo, lesbica, oppure che va con le donne, omosessuale, una persona che ama lo stesso sesso, oppure gay, e che ognuna veramente indichi pure come meglio crede. Insomma, inutile nascondere che le diverse reazioni a questa scoperta sono sicuramente condizionate da una componente culturale. Eh sì, siamo professate. Avete mai riflettuto quanto possa risultare vincolante la negazione sistematica e la continua identificazione negativa di una realtà rispetto alla naturale accettazione della stessa? Adesso vi propongo un gioco irreale. Provate a pensare come reagireste se tutto intorno a voi ce la mettesse proprio tutta per convincervi, ad esempio, che in fondo portare gli occhiali è una cosa innaturale, che il viso con quell'articolo sul naso non è poi quanto di meglio si possa augurare, che non si possono guardare bene gli occhi di chi le porta, che allungando ore si può modificare addirittura il naso e che certo, insomma, se proprio li vuoi indossare, se proprio dici di non poterne fare a meno, se proprio insisti, insomma, fai pure. Però ricorda che senza occhiali staresti sicuramente meglio. Ok, avete provato ad immaginare questa situazione irreale? Bene, sono convinta che anche le più sincere sarebbero portate a pensare se questo venisse loro ripetuto fin dalla nascita, che in fondo tutti i torti non ci sono nel pensare che gli occhiali, tutto sommato, sarebbe preferibile non averli. Bene, ora provate a capire come vi sentireste se, all'improvviso, scopriste di avere bisogno proprio degli occhiali. Sfido chiunque a dirmi che non penserebbe di provare, almeno una volta, le lenti a contatto. Ed ora riflettete su quante volte si parla di amore dando per scontato che i soggetti interessati sono un uomo e una donna. Su quante volte nelle pubblicità si vede una famiglia eterosessuale. Su quanti libri avete letto e in quanti la protagonista è una lesbica. Su quante volte gli omosessuali sono scambiati per pedofili. Su quante volte al consultorio vi hanno chiesto che anticoncezionale usi. Su quante volte vi hanno chiesto ma quando ti sposi. Su quante volte avete dovuto spiegare perché siete lesbica, sapendo che gli eterosessuali non debbono mai spiegare nulla. Su quante volte la figura della lesbica viene descritta con le caratteristiche di una schizofrenica. Su quante volte vi hanno detto sei così perché non hai trovato l'uomo giusto. Su quante volte vi hanno chiesto signora o signorina. Su quante volte viene omessa la parola lesbica. Su quante volte eccetera eccetera eccetera. Siamo fissate? Può darsi. Ma torniamo a noi. Eh sì, perché tanti anni di politica ci hanno insegnato che è necessario partire da noi. Allora, la donna che ci ha telefonato non è stata certo l'unica a dirci che forse era meglio non usare la parola lesbica. Altre donne ci hanno detto separatiste, ancora. E non immaginate quante ci accusano di volerci rinchiudere dentro a un ghetto. Dunque, partiamo da noi, dicevo poco fa. Bene. Allora adesso cercheremo di rendervi partecipi delle motivazioni che, per noi del coordinamento lesbiche romane, sono imprescindibili per una nostra definizione, perché, insomma, amiamo e vogliamo farci chiamare lesbiche. Permettetemi ora di mettervi a conoscenza di un pezzo del mio percorso. Vi ricordate quando prima dicevo che la telefonata di quella donna mi ha fatto ripensare alla mia storia? Bene. Quando ero più giovane e cominciavo a percepire che c'era qualcosa dentro di me che non si allineava con quello che le mie compagne di scuola volevano, che le cose che io provavo o che sognavo erano altre, ricordo che ho provato un senso di smarrimento enorme. Sono arrivata anche a pensare che forse avevo qualche rotella che non andava, che forse c'era qualcosa di sbagliato in me che mi portava a sentire e desiderare cose così disuguali dalle mie coetanee. L'aver scoperto che ero lesbica mi ha pacificato, ha dato un senso al mio sentire, non avevo nulla di sbagliato, ero solo lesbica. Tutto quello che provavo era normale, perché ero lesbica. E la parola lesbica, anche per altre di noi, è stata la parola che ha dato una risposta ed un significato a tutta quella serie innumerevoli di sensazioni che da tempo stavamo provando e che non riuscivamo a collocare. La parola lesbica è quindi una definizione alla quale siamo affettivamente legate, ma chiaramente non si limita a questo la nostra difesa del termine lesbica. Avete mai pensato al fatto che la parola lesbica è l'unico termine soltanto femminile? Avete mai riflettuto che ciò che si spaccia per neutro in realtà è maschile? Avete mai pensato che dichiararsi lesbica è dirompente perché mina alle fondamenta un ordine dato? Avete mai pensato che la lesbica è in grado di scardinare la consuetudine accettata da chi stabilisce le regole del gioco? Avete mai pensato all'uso sessista della lingua? Avete mai pensato che dichiararsi lesbica è rivoluzionario? Avete mai riflettuto che in questa società, che rende sempre più difficile la sopravvivenza e il riconoscimento delle diverse realtà, l'operazione che si tenta di attuare è l'assoluto annullamento delle entità che differiscono dalla norma? Quante di voi hanno sentito spesso dire io non ho nulla contro gli omosessuali, ma che bisogno c'è di ostentarlo? Oppure, ognuno è libero di fare ciò che crede, ma il loro bisogno sessuale se lo giochino all'interno della camera da letto. La nostra politica ci porta a riaffermare un diritto di esistenza e più ci si chiede di stare nascoste e in silenzio, più abbiamo voglia di uscire e gridare. Più ci si chiede di omologarci ed accettare le regole della maggioranza, più noi ci schieriamo e ribadiamo ciò che ci diversifica. Noi siamo lesbiche, lo sappiamo bene, che se rimanessimo all'interno delle nostre case saremmo forse più tollerate. Ma come possiamo permettere l'annullamento e l'azzeramento del nostro essere? Noi siamo lesbiche dentro e fuori casa. La definizione omosessuale comprende di per sé tutte le diversità? Non importa, noi siamo lesbiche. Ci sembra addirittura paradossale che ci siano lesbiche che facilitano il compito di chi ci vuole negare, addirittura autoannullandosi, non definendosi e accettando l'inglobamento all'interno di un miscuglio di entità identificabile sostanzialmente attraverso il riconoscimento di una mera diversità, senza che questa diversità abbia ben definiti i confini, i contorni e le caratteristiche. Siamo fissate? Può darsi. Ma noi siamo lesbiche. Bene, visto che vi abbiamo chiarito, spero, il perché amiamo la parola lesbica, non potevamo che scegliere una canzone in tema. Si tratta infatti di Lesbi Bop, un brano molto diverso da Year Girlfriend. Allora, mi hanno detto che ho sbattuto il foglio sul microfono, per cui non si è capito il titolo di questa canzone, allora lo ripeto, si tratta di Lesbi Bop, un brano molto divertente cantato da Year Girlfriend. Beh, allora qualche trillino l'abbiamo visto, ma messaggi ancora niente. Io ripeto il numero 338 41 46 682. Inoltre volevo ovviare ad un inconveniente, perché prima, quando vi ho detto che potete ascoltare direttamente la trasmissione attraverso il nostro sito, abbiamo omesso, e chiediamo scusa a tutte, di dire che anche attraverso la Radio Onda Rossa, il cui sito è www.ondarossa.info, e in diretta potete praticamente ascoltare la nostra trasmissione. Tutto il martedì. E la nostra è quella di Tutto il Martedì Femminista. A questo punto io riprenderei il discorso che è il tema della nostra trasmissione, e dico che dopo che Kate ha saputo così sapientemente sintetizzare l'ampio dibattito che si è aperto tra di noi su questo argomento, e cioè l'uso del linguaggio, io vorrei leggervi la definizione che il dizionario di italiano ragionato dà di due parole all'apparenza così simili, ma con un significato completamente diverso. Questo a dimostrazione di quanto sia poi importante approfondire le cose senza soffermarsi all'apparenza. Allora, separatismo: la tendenza propria di una parte, di un organismo unitario politico, a separarsi, realizzando un'autonomia maggiore rispetto al centro o una nuova unità. Il fenomeno è diffuso ovunque esistano forti minoranze linguistiche o religiose, oppure regioni che abbiano avuto una storia o uno sviluppo autonomi. L'altra parola è separare, che significa disgiungere, dividere, riferito a elementi tra loro contigui o legati da rapporti. A questo punto, pur non volentoci addentrare in una discussione sul separatismo, che sicuramente merita un approfondimento in una o più trasmissioni, è chiaro a tutte che per noi separatismo non ha nulla a che vedere con il separare inteso in senso stretto. Anzi, sta ad intendere proprio bisogno di affermare la propria autonomia, cioè sentire la necessità, pur facendo parte di un contesto più generale, di affermare la propria identità e il diritto ad esistere in quanto lesbiche. L'errore che molte, comprese le lesbiche, e in special modo le più giovani, fanno, è quello di interpretare le lesbiche separatiste in maniera molto semplicistica come lesbiche che vogliono vivere separate dai maschi. In realtà non è proprio così. Rivendichiamo sì il diritto di gestire degli spazi dove i maschi non possono e non devono metterci il blecco e bla bla bla, ma soprattutto rivendichiamo la nostra autonomia in quanto minoranza, ed in quest'ottica quindi, paradossalmente, anche se per alcune la parola separatismo può sembrare desueta, obsoleta, essa invece al contrario è molto più attuale di quanto possa sembrare. Infatti, in questo contesto sociale nel quale viviamo, dove si tenta sempre di più di affossare il concetto di democrazia e dove le minoranze, siano esse politiche, sindacali oppure lesbiche, gay, diversamente abili, extracomunitari eccetera, sono sempre più emarginate anche dai mass media, ora più che mai noi difendiamo il concetto di separatismo. Farlo significa rivendicare il diritto di esprimere le nostre convinzioni senza che esse siano oscurate. Noi abbiamo una nostra identità, un nostro pensiero, un nostro modo di vivere e concepire la vita, e vogliamo avere il diritto di affermare tutto ciò in piena autonomia, che non ha nulla a che vedere con l'autonomia di cui va biascicando Bossi nei suoi deliri padani, ma autonomia intesa nel senso di non omologazione alla famiglia, al patriarcato, in sostanza la nostra volontà di creare ed essere altro da questa società di cui non condividiamo l'impostazione. Riguardo invece alla definizione lesbica, non riusciamo a capire perché si faccia tanto rumore. Ma scusate, nella lingua parlata si usa genericamente la parola persona per definire l'essere umano in quanto tale? Poi, per distinguerne il sesso, si usa definire uomo, maschio e donna, femmina. Orbene, se si usa la parola omosessuale per intendere chi è attratto da persona dello stesso sesso, cosa c'è di tanto trascendentale che per distinguerne il sesso nell'usare la parola lesbica e gay? Tutto ciò non è dato a saperlo. Ciò che a noi sembra diventare sempre più evidente è il risultato di questa campagna di annullamento operata nei nostri confronti, laddove constatiamo che, ahi noi, alcune lesbiche si cancellano da sole, sparendo in un indistinto limbo, accettando di non definirsi. Se questo non è condizionamento, è o non è qui un problema culturale? Or dunque, tra la falsa interpretazione che si dà del separatismo, e la cui equazione è dividere, separare, e il fastidio che provoca la parola lesbica, ci viene il dubbio che in realtà sia questa società che ci vuole dividere e separare dal resto del mondo, proprio come si fa quando ci sono cose che infastidiscono, fanno male, creano problemi, e cioè si rimuovono e si accantonano. Qualcuno ha paura? Ma di cosa? Di farsi contagiare, forse? Questo è il motivo per il quale con orgoglio e determinazione, ora più che mai, ci dichiariamo lesbiche separatiste. E a questo punto ci tocca ascoltare un altro brano in tema. Io lo dico in francese, in inglese, però provo a dirlo anche in italiano. Sembra in francese, in effetti. Mama, I am strange. Mamma, io sono strana. Dillo in napoletano, vai, che è meglio. Mamma, sono proprio strana. Song strano. Sì, di Melissa Etheridge. Descending, pretending. Allora, vi ricordiamo che siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del coordinamento lesbiche romane nell'ambito del martedì femminista e lesbico autogestito sugli 87 e 900 MHz di Radio Onda Rossa. La nostra trasmissione va in onda a partire dalle ore 21, mentre il martedì femminista e lesbico inizia dalle ore 17 tutti i martedì. Potete contattarci qui in radio allo 06 49 17 50 fino alle ore 22, oppure alla Casa Internazionale delle Donne presso il Centro Femminista Separatista, al Buon Pastore per capirci, ogni mercoledì a partire dalle ore 21 al numero 06 68 64 201. Questo è un telefono fax e segreteria telefonica, oppure ancora potete scriverci a CLR via San Francesco di Sales 1B 00165 Roma. E poi vi ricordiamo anche la nostra email, che è contatti@clrbp.it, il nostro sito web, che è www.clrbp.it, il numero per gli SMS, che oggi sono stati proprio assenti, 338 41 46 682. Ma voglio ricordarvi anche il sito di Radio Onda Rossa, che è www.ondarossa.info, oppure ondarossa@ondarossa.it. E vi ricordo ancora un'ultima cosa, che c'è la campagna di finanziamento per Radio Onda Rossa. Avete ascoltato È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento lesbiche romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Quella che avete sentito era la sigla, ma non ve ne andate, perché staremo in compagnia con voi fino alle 10. E quella che state ascoltando è Shirley Crow con il brano Keep on the Groaning. Io spero che Francesca prenda il coraggio e dica anche lei qualcosa, anche perché io e Pina non sappiamo più che dire, che so, un saluto in diretta, dedica questa canzone a qualcuno, fai sentire la tua voce, perché sennò non ci credono che ci sei, dicono che me lo sto inventando insieme a Pina e tutta. Di ciao, solo ciao, dai. Ciao. E c'è, non sono stata io, è stata lei, è Francesco. Yeah. noi ci siamo ancora, siamo sempre qui fino alle 10, stiamo aspettando i vostri messaggi, i trillini. A questo punto mi viene il dubbio amletico che o la trasmissione non vi è piaciuta, oppure siamo state troppo serie, e questo lo riconosco perché Caterina è irreprensibile, tutto sommato. No, io mi diverto poco a stare in trasmissione con lei perché sta troppo tesa, insomma. Io divento una corda di violino, lo so, però deve andare bene per me. È difficile rimanere tranquille quando c'è davanti un armamentario del genere con tutti i jack, le lucine, i cd, il telefono, mamma mia. Sì, è vero anche che lei c'ha un impegno maggiore del mio, perché io sono qua tranquilla che così parlo degli argomenti e vivo, insomma, sono un po' più... Magari se parli pure nel microfono ti sentono pure, ecco, a casa, ecco, come al solito, ecco, questi sono i miei errori soliti. Ecco, invece lei è addetta anche, e la tecnica anche, quindi di conseguenza ha una responsabilità in più rispetto a me, però che devo fare, insomma, cioè... Comunque non la sopporto quando vengo in trasmissione. Che va bene. Era quello che volevo sentirmi dire. Anzi, io poi che ce l'ho di fronte in questo momento è rossa come un peperone. Sì, sto tutta morendo. Tutta avvampata, chissà che cavolo gli è successo. È il fuoco della passione che mi sta prendendo. Allora, quella che state ascoltando è Alain Morissette con il brano Things, Pensa, che poi dovrebbe essere pure Pensa, in quanti modi si può dire la parola Pensa? Si può dire Pienza, Pensa, Sto pensando, Come Pienza, Perché Pienza, oppure Pensa un po'. Pensa un po' tu. Pensa un po' te. Cosa pensi? Forse ci si suggeriscono di pensare in silenzio, così si sentono la canzone, non sarebbe male. Va bene, okay. Ascoltate il vostro brano tranquillamente. Ma probabilmente non vi piace neanche questo, perché i trillini non li vedo. Diventa una questione di principio, guarda, quando Pina ci si mette è serissima. Grazie. Grazie per il trillino, alla compagna che ha fatto il trillino, grazie. No, anche perché qua è una questione di gara, tra noi e le altre compagne, perché facciamo a chi arriva più trillini. Cioè, abbiamo una lotta aperta con Annalisa proprio, noi, una guerra all'ultimo sangue. A proposito di Annalisa, la salutiamo tanto, speriamo che si rimetta presto, perché in questi giorni l'influenza ha preso anche lei. Comunque speriamo proprio che si rimetta nel più breve tempo possibile, e a lei mandiamo un saluto particolare. Allora, io sulle note finali di questa canzone vi voglio ricordare la nostra email, la nostra del CLR specifico, che è contatti@clrbp.it, il nostro sito web che è www.clrbp.it, e volevo anche ricordarvi invece quelli della radio, che sono www.ondarossa.info oppure ondarossa@ondarossa.it. E visto che la nostra trasmissione volge al termine, e visto che non ci avete mandato messaggi, e visto che i trillini sono stati pochi, e visto che probabilmente vincerà Annalisa, vorremmo chiudere questa nostra trasmissione con una canzone dal titolo appropriato, Why di Annie Lennox. Scusa Kateri, why inteso nel senso di guai o why in senso nel senso... Io non voglio fare la trasmissione con una terrona del genere. Why, non in senso guai, ma why in inglese. So che il mio inglese non è proprio, come si dice, Oxford, ma insomma, why significa perché? Ah no, perché in napoletano why significa guai. E allora praticamente... Madonna mia, tu si no why. Tu si no why e not, come spesso portatela gli via, no, che portatela via. E questo uno poi deve capire bene. Why? Allora, why perché? I tanti perché della vita. Perché non telefonate? Perché? Perché non ci scrivete, perché non ci mandate i messaggi, perché non vi fate vive, perché, perché, perché? Ma questi sono i perché che si creano anche quando, come quando eravamo bambine, no? Sì, sono delle reminiscenze infantili che uno ha 3 anni dice perché? Perché? Ma io lo so un perché, perché non vi ricordate il numero per gli sms che è 338-4146-682. E invece quando a tutti i miei perché io mi ha fatto venire in mente una cosa, io quando chiedevo a mia mamma perché, perché, perché, lei mi dava delle risposte, poi a un certo punto quando si rompeva diceva perché, perché o papa non è re, o re non è papa e tu si non ruocca le rapa. Santa donna, la mamma di vino, sempre detto. Allora, sulle note della canzone che ascolterete tra poco e che è una chicca, perché adesso se ci riesco a metterla ve lo dico, ecco qua, è Whoopi Goldberg addirittura, niente proprio di meno che la nostra Beniamina, che canta, è vero, non l'avete mai sentita, adesso l'ascolterete insieme a noi, Whoopi Goldberg con il brano You Got It. A seguire ci sarà anche chiaramente la cantante che ha scritto questa canzone e l'interprete reale che si è divertita a giocare con Whoopi Goldberg, che è Bonnie Wright. E sulle note di questa canzone il coordinamento lesbiche romane in stereofonia vi dà appuntamento a martedì prossimo. Per il momento vi salutiamo, grazie veramente per i trillini, insomma qualcuno ha messo il ditino sul telefono, ringraziamo per lo sforzo, ci auguriamo che la trasmissione vi sia piaciuta e vi ricordiamo che qualunque ulteriore informazione, qualunque tipo di approfondimento, qualunque dubbio, qualunque critica voi vogliate avanzarci o chiederci, potete farlo attraverso la nostra email che è contatti@clrbp.it, oppure potete telefonarci al Buon Pastore il mercoledì a partire dalle 21 al numero 06 68 64 201. E con questo direi basta, Caterina, sì, ce ne dobbiamo proprio andare e lasciare lo spazio a Liberamente che seguirà dopo la nostra trasmissione. Ciao a tutte. Ciao a tutte e buona serata. Every time I look into your lovely eyes, I see a love that money just can't buy. One look from you, I drift away. I pray that you are here to stay. Anything you want, you got it. Anything you need, you got it. Anything at all, you got it. Thank you. siamo persi in un addio. Vorrei sentirmi dire t'amo. Proseguo il sogno in quella mano, in quella bocca, in un angolo. È là che mi sveglierò, mi addormento un po', più vicino al suo cuore, più vicino vorrei. Voglio fare sguardo, hai detto sì.